su 10. Ho una prova tecnica di trasmissione. Prove tecniche di trasmissione. Hola. Hola, attenzione al canale 10. Hola. Attenzione al canale 10. Attenzione 10. Ora? Cavalco. Chi sei? Doppio? Cavalco. Perché c'è il checco? L'eco dell'apparato. Sai, per far funzionare tutta la circuitazione. Anche questo era fermo da un po', è l'ultimo del giro turistico, l'ho attivato un po', è leggero leggero, dai, non credo dia fastidio. Chi è l'altro? Mia papà. Mia Tonino mio, ho chiesto a te di oggi a Manuele, ho detto, ma Tonino non entra più, non l'ho più sentito da mesi. Lavoro con tuo figlio e quindi adesso che sono fornifero, da domani iniziamo in una tappa. Comunque, buonasera a tutti. Ciao Tonino, buonasera. Però è uno va in pensione per godersi i propri hobby, vizi, e se no uno va in pensione per lavorare ancora. E beh, ti tieni sempre in allenamento almeno, perché se uno va in pensione sta fermo, si alleggerisce e poi dura poco, invece uno è sempre in movimento, è meglio. E anche quello è vero. Ecco qua, va bene. E riprendete da. Ma ditemi, ma di radio come mi sentite? Aspetta. E adesso? Diciamo un po' l'asino, ma andiamo a bere, dai, si capisce. Amplifica, sì, ancora. Cosa? Se amplifica questo microfono di qualità. No, sta fischiando. Adesso. Aspetta. Ecco, adesso non dovrebbe fischiare più. Adesso di uso anche la radio. Sto usando quello grigio, ce lo sai. Capito. Ho capito. Però all'inizio era l'asino, adesso è limpida la radio. Ho registrato un pochettino, tutto qua. Ando bene, bene. Comunque già io quando parla Torino non sento tutto il parlato, non è che sia proprio limpida limpida, quel mic poteva essere più limpido, c'è amplificazione, ne ha pure troppa per dire, no? Però come ha detto Marino l'altro giorno, mi pare che avevo sentito carellando, anch'io non so se è per l'udito, certe volte non riesco a discernere tutto il parlato, capito? A meno che uno non abbia proprio una radio nitidissima, però con Tonino me lo fa di più, o è il modo di parlare veloce. Forse il mio modo di parlare veloce sarà, capito? Sono troppo veloce, tutto per tutto. Parlato, lavorato, bombato. È un po' barattoloso, è vero. Non hai altri microfoni, ma questo qua è tardi, mi ha detto. Questo lo sciore. Ma con questa radio mi sa che non va bene, andava bene con l'altra. No, io lascio questo. Non devo giocare con la ghiaccia, con un altro. Come, occupami, se ti rimane adesso, va. No, è a momenti un po'. A momento ho anche fischiato prima. Io sto usando sempre il KPO Gianni e alla fine con questi adattatori lo posso usare su quasi tutti gli apparati, credo tutti. È nitidissimo, proprio chiaro, chiaro, chiaro, Marco. E il baracchino è il President Richard. Com'è, piccolo? Ma è come un Alan 48, un Alan 48, soliti controlli, volume, squelch, mic gain, RF gain e anche la potenza però. In questo caso io sto usando 3 watt di portante muta, 4 modulati, fischiando, per pilotare la solita cosettina. Da. Ah, si è attaccato, mascalzone. Ma per fare il lavorarmi, per farmi sentire che ne so, stasera nel pomeriggio è entrato il coso da Itteri, e sai, tra propagazione e QRM almeno mi sente con qualche watt in più. Come si chiama da Itteri? Coso? Daniele. Ah, Daniele, io sono io. E lui usa il K, arriva bene. Va bene, ho fatto una passeggiatina con amici nel pomeriggio e siamo rientrati presto, mi sono buttato alla differenziata, adesso sono tutto bello stravaccato, in pantofole. Tanto cuoio, no, io non sono proprio uscito perché avevo urgenza a pranzo. Cucinare e fare, quindi sono uscito solo a portare il cane, siamo mattina e poi sì, c'è un po' di venticello, ma nemmeno tanto, dai. La giornata era abbastanza calda, mai come l'altro ieri e ieri l'altro c'erano i 20 più gradi, altro che inverno. Ma ecco, inverno non è fatto, quest'anno inverno non è fatto. Stufa ne avevo usato poco e niente di giorno già, giusto la notte per quando ti devi spogliare, mettere in pigiama, andare a letto. La sera non puoi uscire a peggio. Cosa? La sera non puoi uscire a peggio, stamattina non puoi uscire poi. Stasera esce, già esce, sì. Esce anche la sera. Cosa ti stavo dicendo, detto Marco, dici che non ha fatto inverno, cazzo vai e dirlo dove ci sono stati 5 di Aragavita. Guarda, noi siamo andati al porto di Pro Torres, c'era sì un po' di venticello, però non era nemmeno freddo, c'era più vento in proporzione a Sassari, forse perché siamo più in alto. E dipende anche il vento, se è vento di terra magari lo senti più in città. Sì, ma io sono diretto così, mi piace un caffè, due risate, una chiacchierata e poi guardate il mare e rientrati. Cappa. E avete fatto bene, tu li ripeti. E io invece alle 4 ho iniziato la pedra a Minerva, protegge il fugliatore, poi tutto bello spazzato, ho buttato tutta l'erba, tutto a posto, finito, mi sono messo da tutta un zeggetta, ed era soltanto le mutande e in magliettina, però era tutta un zeggetta, non posso neanche fino all'aria. C'era un po' di 25, però stavo bene, la verità. E ho fatto quello che dovevo fare giustamente. Tanto che il cepugliatore ce l'aveva nuovo, non sto usando di tanto. Quando finisco lo lavo tutto, pulito, lubrificato, e poi quando faccio consumare da poca miscela che c'è il carburatore, quando si spegne lo faccio aspettare, poi metto la buzza e la metto in magazzino. Adesso quando diventerà più alta, penso che 3, 4, 5 mesi si cade di nuovo. Tutto qua, non ho fatto altro stasera. Perché anche se la pelle si piove di nuovo, ricresce e c'è poco da fare. Ma perché adesso il tempo dovrebbe cambiare in buono, dai. Dovrebbe esserci bel tempo tra poco. E poi ho tagliato anche fuori dal cancelletto, per tutta la zona, che zona mia, diciamo, cioè il mio confine, quindi è già va bene così. Infatti la macchina la sono spostata, io entro un pericolo, mi tengo a vedere, così ho fatto. Ma non mi piace vedere questa erba alta, sembrava trascurata, niente, ho detto, mi sono messo in testa, stasera mi taglio tutta l'erba, ok, proprio, è una gran cosa, dai. Sì, la trattatura dopo cena, parlo della buccia, invece un buccio è pieno. Vabbè, comunque, fatto fate, ho spesi più. E sono contento che domani è lunedì, meno male. Io non sono molto contento perché ho mille cose da fare domani. Vabbè, io non trabacco, però mi piace un po'. Che paga, avanti, ma... Comunque io Tonino lo sento barattolato, non lo sento bene. Io non so se sia originale quella capsula del coso, perché il coso di solito esce discretamente bene. Già ne è un bijou in confronto di modulazione, proprio nitida. Guarda, i migliori sono lo Shure, quello famoso potenziometro rosso, o il tasto, non mi ricordo. E il Sadel Tecco Master, le più limpide modulazioni, cioè i più limpidi mic da tavolo sono quelli, infatti ero sempre prediletti quelli là. Gianni, tu cos'hai al momento di mic? MB più 4. Comunque, questo è quello grigio, monopolina e volume rosso, davanti grigio c'è scritto Shure e prima c'è un quadratino con una specie di S rossa, ok? Cioè quello, e saluta il microfono, adesso l'ho messo a 5 proprio a metà. Ah, quello è lo Shure, non è il, come si chiama l'altro, quell'altro noto mic? No, ma io c'ho lo Shure, non ho sempre detto che ho lo Shure. No, perché adesso facendo un paragone, è presente Franco Binario, lui ha una modulazione stupenda, limpidissima, nitida, è diversa dalla tua, perciò mi chiedevo se la, se la capsula fosse, fosse originale. Sì, sì, qua è tutto originale. Ok, poi dipende da apparato a apparato, lui ce l'ha sotto lo Samurai, capito? Io ce l'ho sotto questo Lafayette. E quindi da, io sono sicuro, se avrei avuto qua il coso del Galaxy usciva ancora meglio, perché è così. Dipende da baracchino a baracchino. Hai detto Samurai? Ah, sì, vero. K, prima sì. C'era una bomba col Galaxy. Col Galaxy ci va forse davvero, eh. Ma anche troppo forte a volte. Ma hai detto Samurai, hai detto che è il Samurai come apparato. Noni, io ho la Fayette e quindi quello che sta usando, lo Shure come il mio, che esce bene al Samurai, che l'ho avuto anch'io tantissimo tempo fa, negli anni 80, con esattezza. Tu dico, là c'ha l'attacco, l'attacco del Galaxy quel microfono. Non lo so, poi c'hai quattro fuori praticamente, quello sotto è più alto normale. Cioè tu non sapevi sul gas e non l'hai cambiati con le tue? No, poi non l'ho cambiato neanche, io come l'ho messo qua funziona. Ho capito. Perché ci può provare qualche altro microfono lì, magari se va meglio. No, te ne do! No, non è Guglio, no. Non è Guglio, tu lì. Non credo. Ok, qua siete già per l'odore della bistecca, quindi sto chiamando e vado a cenare. Signori, io vi lascio, ci sentiamo alle prossime, se vi sento domani sera, bene, sono pazienza. Ciao Marco, ciao Gianni, eventuali ascoltoni, cuore tanto da parte mia, ciao ciao. Ciao, ciao Torino, buona carica. Ciao Torino, buona carica, buon tutto e ci sentiamo. Dove eravamo rimasti? Ah già, ti volevo dire che l'Ecomaster l'hanno rifatto, però marcato con un'altra marca. È costosissimo peraltro. È lo stesso mic, spero che internamente sia anche lo stesso, stessa capsula, stesso circuito. E costa un pacco di soldi, nuovo però, è nuovo, nuovo dei negozi. Adesso hanno venduto due su internet, uno 60 euro e uno 50. Quello da 50 c'è da controllare i tuni perché non vanno, per il resto funziona tutto. E niente, e l'altro invece quello da 60 è tutto funzionante, però c'ha al posto del cursore gli hanno messo una manopola a casa. Peccato, quando è già così, c'è qualche pecca. Poi il Samurai, invece il baracchino Samurai l'avevo avuto anch'io negli anni 80, pensa che abitavo ancora nella vecchia casa di Viale Mameli. Il Samurai era come un, come un 3009 col frequenzimetro, sempre cromato, cifre verdi, eccetera. Però nel mio caso la modulazione non era cupa, era cupa, probabilmente l'avevano manomesso e in AM col mic di serie non era un granché. Se no deve uscire limpido, limpido come il 3009 deve uscire. Poi come esce quello di Binario? Binario c'ha quello, c'ha Samurai. Io l'avevo comprato, usato da quello che abitava in via Principessa Yolanda, porca miseria, Sandro Satellite. Ah, da Sandro, sì, sì. Anche quello chissà che fine ha fatto, non l'ho più visto. So che è andato in banca a lavorare a fare l'autista. Cos'è questo rumore? Fuochi artificiali, ma ogni tanto si sentono fuochi artificiali, di giorno, di notte, non ho capito se siano feste, feste di qualcosa. Ti volevo dire, sì, lui poi chissà da chi l'ha preso, quindi magari è stato toccato in precedenza. però passando dal multimode 3 a quello, finito l'abbattimento, finiti gli splatter, c'era un abisso. Il multimode 3 era terrificante all'epoca quando era pieno di gente. Chiappa, chiappa. Ma sai che festa è solo? La festa della droga, e quando arriva la droga, per far capire che è arrivata, fanno i fuochi d'artificio. Ecco, te l'ho spiegato. Sì, me l'avevi detto, ma no, certe volte lo senti da zona monte, certe volte da luna e sole, da vari punti della città. Quindi non sono feste o roba del genere. Ho sentito addirittura che, non ho capito se in continente o dove, stanno consegnando la droga con i droni. Capito, te lo fanno atterrare, che ne so, in una terrazza, ti prendi la tua roba, gli metti i soldi e il drone decolla e ritorna allo spacciatore. Non so se sia una bufala. Ma io non ci credo che si fidino così. E se l'altro non gli mette i soldi? Vabbè, però in certi ambienti già se sgarri, cioè non mi paghi la roba, poi gli fanno la pelle, capito? Probabilmente per consegnarla col drone sono clienti fidati, e se no non è che vai così allo sbaraglio. Ma di tutti i colori se ne sentono. Le trovano tutte, capito? Le trovano tutte. Io non so se tu vedi mai quella polizia negli aeroporti che fermano le persone, eccetera. Ultimamente ne hanno trovato uno che aveva pacchi di droga nel doppio fondo della valigia. Per caso è quello ambientato in Australia? C'è la polizia italiana, no? È italiana la polizia, perché parlano in italiano. Gli ha detto: guardi che io, perché mi volete perquisire, io non ho niente da temere. E dice: sta tremando, forse qualcosa da temere ce l'ha, qualcosa da dichiarare. E lui: no, assolutamente. Cioè, hanno svolto tutta la valigia, non c'era nulla, poi c'era il doppio fuoco. Sì, praticamente non so chi ha copiato chi, io guardavo quell'edizione australiana, no? E riuscivano a nasconderla nei posti più assurdi, nel tubicino del trolley, no? Della valigia, la maniglia estraibile lì, guarda, tutti i tipi di invenzioni, sciolto nei liquidi, eccetera. Però bene o male, poi con questi test che hanno loro, hai visto, le provette, basta un granello, il prodotto, agitano, se diventa viola, in base al colore ti dicono che se è eroina, se è cocaina, se è hashish, eccetera. E non è caso sempre droga, secondo quanto te ne trovano, se si vuole rimane, se si brucia, perché vanno fatto con quello. Lo dobbiamo dichiarare in arresto, ha fatto gli occhi sbarrati. Mamma mia, e poi sì, quando vedono la provenienza, certi arrivano dalla Colombia, da posti del Centro America, dove sanno che vengono prodotte queste cose, non vorrei essere nei loro panni, mamma mia. Ogni tanto beccano invece qualche cinese che si porta da mangiare dalla Cina, tutti tuberi strani, frutti strani, semi strani, e gli sequestrano, perché certi semi se li vai a piantare in un ecosistema diverso rischiano che poi li rovinino i loro stessi raccolti, capito? Roba invasiva, tipo, vabbè, c'è, capito? Anche carne gli hanno trovato mezzo putrefaccia nella valigia. Sì, questi cinesi, sì, ma no, questo qui aveva fatto tre viaggi praticamente in un mese, era andato in Congo, uno per cavolo era, e è andato per tre volte ha viaggiato in un mese, quindi l'hanno sospettato per quello. Quando inizia a essere sporca la cosa, poi hanno apparecchi radiografici, quando vedono attraverso le valigie, e rispetto a una volta si sono molto evoluti. Una volta si usavano magari più i cani per filtrare, vabbè, si usano tuttora, infatti. Oh, poi secondo me certe cose sono anche soffiate, però, soffiate. Qualche concorrente di quel mercato sa che c'è un carico che deve arrivare quel giorno lì in aeroporto, fa la soffiata e li beccano. Non siamo più negli anni 70, no? Hanno delle tecnologie adesso. Ecco, vedete, delle cose sono evoluti. È normale. Se sono evoluti le spacciature, figurati se non si evolvono la giustizia. Ho già come volume di modulazione è sufficiente, perché qua non vedo picchi, vabbè, questo smitter è circa al salire, però non vedo picchi, devo fischiare per vederlo salire, tipo. Allora sale, sì. No, non sia che la batteria stia cominciando a scaricarsi, c'è da anni c'è qua. Pronto, che se lascialo così che è perfetto, il volume è alto, la voce è chiara, non c'è niente da dire. Questo dei presidenti già è il meglio, perché l'altro presidente, quello piccolino, che comunque anche con l'amplificato rende meno. Poi c'è questo che è sempre MFM, un po' più grande, poi c'è l'altro di dimensioni, vabbè, contenute, però che ha MFM, SSB e tutto. Comunque già li avevo contatti, sono 11, diciamo 12 secondi il portatile Maxcom, e sono di cui 3 CRT, 3 President, 2 3009, poi la Linco, la HR5005, poi quello veicolare senza smitter della Intec, e poi volendo il portatile, che tu hai detto, il Maxcom, a cui ho preso le batterie ricaricabili. Lo devo provare in aperta campagna, in zone alte oppure, no? Per provare a farlo funzionare con l'antenna incorporata. Sì, io ci avevo l'Intec uguale, poi è partito, c'era un mediano, ma un bel però. Mi è rimasta l'antenna, quella praticamente che si attacca con la base magnetica, che si attacca alla macchina e poi si può allungare e abbassare, di quelle telescopiche. Sì. E andava bene, quell'antenna, perché io ho parlato da Sassari a da Pratamona a Sassari, da Sassari a Pratamona mi sentiva. Ma quel portatilino l'avrei tenuto, è tutto il kit, per quanto un po', vabbè, anacronistico, però io c'ho anche la valigetta, tutta un po' scassata la valigetta, dopo tutti quegli anni, però miracolosamente funziona, in AMS, benino, chissà quella volta cosa ha avuto invece, e l'avevo provato al solito San Francesco, no? Dove ci sono le scaline, e però il giorno usciva male, forse c'erano o le batterie scariche, non c'è altra spiegazione. Vabbè, e quindi c'è 11 apparati in tutto, apparati veicolari, dico. Ogni tanto si fa rotazione, ma... grazie, stiamo dicendo, ma non c'è l'attacco per la CD Siga in quello. Quale? Il portatile? Sì, il Maxo. Io gli avevo fatto anche gli spinotti, cioè c'ha quel jack, vabbè, quello spinotto, porca miseria come si chiama. Sì, posso usarlo sia con una CD sigari, sia con le banane dirette all'alimentatore o dalla batteria, almeno il cavo dalla batteria non ce l'ho in macchina. Sì, ma quel Max uscivano bene come l'Intec, che c'aveva la capsula che andava benissimo, quindi c'erano tutti che usciva fortissimo. Ehi, quando era nuovo usciva anche più forte, adesso esce, vabbè, normale. E di quello due antennini, il suo originale telescopico con la base, poi quell'altra base Intec che era identica alla base d'aspetto, però aveva l'antennino in gomma da 30 cm, quindi due basi magnetiche simili, sempre con quel filo del Menga sottile, no? L'RG 174. Beh, io vabbè, funziona, ma non si usa mai, diciamo, è un ricordo, la tante di mamma, non lo posso toccare, non ti azzardare a venderlo, lei. Niente, io quell'antenino lì lo uso quando faccio delle prove, magari che sia stato qualche cosa, lo attacco con l'antenna per uscire senza, capito? Quando premo la forzata, lo uso per queste cose qua, capito? E lo uso, c'ho anche un alimentatore di quelli tipo cinesi, quelli del computer, da 50 ampere, che adesso l'ho tolto dalla stazione perché sto qui in un asilo, troppo. C'è un rumore da vento. Sì, fa veramente rumore. Però visto che non scalda nulla, almeno a me non scalda nulla, nemmeno se lo metti sotto carico, la ventola si può mettere, o scollegarlo, o mettere un interruttorino esterno in modo di attivarla solo se necessario. E poi carrellando ho sentito che dovevi dare la turbo, l'avevi data quella turbo veicolare? No, ce l'ho ancora, quella nuova, quella che non ho mai usato, non ho manco attaccato il PL ancora, niente, proprio è nuova roba. No, non l'ho data, quel ragazzo mi ha detto che ci faceva sentire e niente, poi non lo so cosa ha deciso, ma già è lì che non mi chiede da mangiare, è che lasciarla sul mobile così senza usarla mi dispiace. Ma ti avevo sentito, mi pare, ieri che eri in macchina e sei passato a un certo punto, eri fuori lo scala, 9.30 è incollato e io ho fatto, provato a fare però non mi ha risposto. Vabbè, stavi tornando a casa. Non lo so, non ti ho sentito, Marco, probabilmente è che c'era una portante, capito? Quando stavo parlando contro le squadre non mi sono portato. No, io portante non ne ho sentito, perché sono stato proprio pochi secondi, era il punto, probabilmente tu eri vicino o al via Dotto o via Punizzetto, ma cosa, sei arrivato a fondo scala incollato, ecco. E poi vabbè, visto che non c'era risposta ho chiuso, ho girato i canali, non so, non mi ricordo. È perché non mi hai chiamato, scusa, però io non ti ho sentito, perché c'era questa portante, non si capisce se era la zona bassa, dalla zona alta, dov'è. Perché io non l'ho sentito, non sono riuscito a vedere il segnale, capito? Perché quando parla buio metteva la portante, quindi non si vedeva il segnale, ma per immaginazione ho capito chi era. Ancora le portanti, ma ti copriva, perché vabbè, da me eri tra per il fondo scala in quel punto, magari eri tipo via degli astronauti, oppure si è passato anche via del sole, non saprei, vabbè, ma era bassa oppure alta? Non lo so, Marco, perché la mettevo quando parla, poi la toglieva subito e praticamente non l'ho mai vista la portante. Torre la sentivo, Vittore Squaro, mi ha detto che mi copriva. Sì, sono passato lì in via degli astronauti, probabilmente lì che tu mi hai sentito lo scalo. In via degli astronauti sono passato, via Luna e Sole, via degli astronauti, via Mara, sto parlando. Va bene, insomma la gente si gioca ancora anziché entrare a parlare. Stasera ho sentito invece il pomeriggio sul 15 c'era qualcuno, forse Alghero, non saprei, però non sono entrato a chiedere, non ne ho voglia, poi devo uscire eccetera eccetera. Ecco, no, io so che c'è questa rotta di Alghero, però non l'ho mai sentito, non so quando entrano. No, infatti, poi usano il PMR anche, e quindi magari fanno ruota tra di loro, però sul 10 te lo detto, non, ma anche per chiedere controlli, no. Niente, nemmeno la curiosità, vabbè, se vogliono entreranno, dai, così ci facciamo un po' di controlli corrispondenti, dai. Ma io dico, ma perché usano questo PMR? Per lasciare in via da questa frequenza, così abbandonano la 27, parlano su PMR, abbandonano la 27, la 27 se ne va a Panguala. Io me l'ho venuto, cioè l'ho regalato, anzi non l'ho venuto, l'ho regalato perché non lo usavo mai, lo lasciavo sempre a costo suo, senza usarlo, quindi per non usarlo l'ho regalato a una persona che lo usava. Mi ha fatto un favore e glielo regalato. Ecco il bip, noi siamo al completo. amplificato, lineare, ecco, ecco. E bip. Tutti i cazzi che per dire, io sono affezionato al gas, non c'è niente da fare. Ne ho belli gli apparati, ma mi piace il gas, non c'è nulla da fare, ma. Io. Io vabbè qua non ho una preferenza, vabbè 3009, però è scarso in FM ricezione, è stretto di ricezione FM, io sento bene gli inglesi per esempio, 90% degli inglesi li sento bene perché loro si tarano l'emissione, la deviazione FM a 2 kHz, 2.1 massimo, no? Poi cioè, se senti qualcun altro con una emissione troppo larga, strappa, non c'è niente da fare, è fatto così quella parata. Di tre che ho avuto, che l'altro era il Super Jopix 2000, no, quello del Profeta, e stessa cosa. Invece gli altri apparati, questi digitali, digeriscono meglio la ricezione FM, ecco, anche se uno è espanso di emissione lo riesce a accoppiare abbastanza bene. Ecco. Allora il Profeta non si è più sentito, chissà che fine ha fatto. E il Profeta si dedica un po' a Roma DJ, console di mixaggio, roba del genere, no? Magari a eventi pubblici, concerti, un po' di musica per giovani. Ecco. Carlo non si sa, notizie di Carlo, non è più entrato, non si sa se ha piazzato nulla, no, vabbè, ci avrà altre cose da pensare. No, non l'ho più sentito io, era che lo chiami questi giorni, non l'ho più sentito, no, sinceramente Marco, non so se si sia trasferito, se non si sia trasferito ancora, non lo so, dovevano consegnare la casa. Io avevo capito appunto solo che aveva cambiato QTH e quindi immagino che l'antenna non l'abbia piazzata ancora, sempre che la piazzi, dai. Vabbè, comunque da bella serata, così da, ho spezzato un po' uscendo, Apollo Torre, si prende un caffè, vedere il mare, il mare era una tavola, bello bello. Io volevo uscire, però c'avevo gente a casa, come facevo? Io la domenica ho sempre gente, quindi cosa faccio? Me ne esco e non li faccio venire a casa. Purtroppo quando c'è gente devo cucinare, devo fare, quindi sono occupato tutta la sera, poi devi lavare i piatti, devi mettere tutto a posto, eccetera, ti passa la serata così. Io devo solo lavarmi un po' di roba. E dopo vabbè metto mano alla lavatrice, da poca roba, lavaggio veloce. E poi vabbè, non entra nessun altro stasera, non ci credo che siano tutti a zonzo, però sanno tutti con l'orecchio da l'orecchione, con le parabole, tutti all'ascolto. Poco fa c'era uno che metteva la portata e diceva avanti e non entravo, metteva la portata, ma dallo stacco del microfono ho capito chi era. Ma non quello del bip, no, c'è uno che ha un bip lungo, è di tono basso, e io ce l'ho davanti, pronto, dico qualsiasi cosa, allora l'uomo niente, no, non entra. No, non aveva bip. Non cambierà mai la 27. Vabbù. Di che altro dire? Non saprei. E a pescare non ci sei più andato? No, pescare decenni che non vado. Anzi, stasera a me l'hanno proposto, dice, sarebbe bello, dice, le canne, guarda, ce l'ho tutte, dice, anch'io. Ho detto, anch'io ce l'ho le canne, però i mulinelli sono andati, cioè, non mi fiderei a pescare con quei mulinelli e con quelle lenze. Le lenze, vabbè, vanno cambiate a priori dopo 8 anni, saranno fragili. Però un mulinello recente, che non sia troppo cinese, magari, perché adesso dove li compri uno? Pasquale ha chiuso, a Sassari chi vende mulinelli decenti, oppure vabbè uno se lo prende online, sei robot tipo Shimano, niente di troppo grande, niente di troppo piccolo e soprattutto niente di troppo costoso, un linello ordinario che abbia la frizione regolabile. E io ce l'ho Shimano tutti quanti, c'ho l'8003, l'7003 dello Shimano, poi ne ho diversi, capito? Poi quello che ho messo nella cannetta piccola per pescare i calamari, gli ho messo uno cinese, ti dico la verità, però le canne buone ciò con mulino di bue. Sì, qualcosa la volevano fare, però mi raccomando, niente roba di scalare sulle rocce, roba pericolosa, perché l'equilibrio mio non è più quello di quando avevo 20 anni, tantomeno la forza, la resistenza fisica. Andavamo in posti impossibili che ti dovevi quasi arrampicare, mi c'hanno dietro, però adesso se voglio stare con i piedi piantati stabili a terra. Sì, Shimano sono belli anche d'aspetto, ma tu cosa preferisci? La frizione, perché io a quanto ho capito poi era così, e quelli da mare hanno la frizione sopra, non sulla bobina, quelli da fiume più che altro hanno la frizione sotto, e tu quali preferisci? Che poi alla fine basta che ci sia la frizione, che sia sopra o sotto, poi non è il cambio molto. Beh, infatti, è più comoda sopra, perché ti ricordo come li per regolare. Una pescata su internet, questo qua, in fiume, con una pallina fatta con il pane, fatta così, mi c'è un pezzo di pane, l'ho messo al buio, l'ho fatto questa pallina nell'anno, e si è pescato un pesce, era più di mezz'ora, tirato, mezz'ora, diciamo con un braccio a pizzi, e dopo l'acqua, di dopo c'è ti strato lì, partiva la lenza, questo che è grosso qui. Ha preso una cappa enorme, sarà stata un peso 18 kg, 20 kg. Quella è una battaglia, quella è proprio una battaglia. Quando ti fa penare così devi avere armi resistenti, lenze resistenti, tutto resistente, da. E anche una certa maestria, in modo da fare sfiancare il pesce e poi recuperarlo. Prima che fare sfiancare il pesce, prima che il pesce sfianchi il pescatore, più che altro. Ma io gli ho scritto, stringe appena appena la frizione, non di molto, ma appena appena, perché la frizione è troppo mollata. Lui ci sta tutto il giorno, capito? Se non trova un po' di attrito il pesce, non si stacca. Se trova la frizione libera, prende parte. Un po' dice, ma si spacca la lenza. No, si spacca la lenza, non ti preoccupare, che non è la prima che legavo. E poi praticamente io gli ho consigliato di chiudere un po' la frizione e di aiutarsi con la canna a portare la canna all'indietro, di modo che la avvicinasse il pesce. Invece lui lo lasciava con la canna ferma e girando il mulinello, e poi andava a vuoto, perché poi si riprendeva tutta la resa, partiva di nuovo. Per questo qui la piega che lo prende, invece ce l'ha fatta a pigliarla, lo sai. Mi ha ricordato quel cartone animato che guardavo da piccolo, Sanpei. Tu vabbè, di grande, quanto ne guardavo, lì facevano vedere ogni volta che avevano a che fare con carpe mostruose, luci enormi, grandi, esageratamente grandi. Guarda, divertente però quel cartone. Questo Marco ha detto che questo fiume si paga per entrare, 10 euro per tutto il giorno, e ti tutto il giorno ti diverti, certo per divertirsi, però mi sa che devi ributtare il pesce in acqua, non lo so se poi l'ha liberato, perché poi ho girato, una volta che l'ha preso ho girato. Sono stato a casa più di mezz'ora aspettando che lo prendesse, perché lui mi stava imporrando, e ha detto voglio vedere che pesce. Ed era il fiume, però sono quei fiumi che sono artificiali, no? Sono fiumi artificiali e si paga l'entrata, paghi 10 euro e stai tutto il giorno a pescare e ti diverti. Io mi ricordo che nei primi 90 avevo fatto il libretto di pesca per le acque dolci. Tante menate, poi andato una volta, cos'era, il Coinas, mi ero fatto rubare 80 km, non si pescava una mazza, perché io ricordo da bambino abbastanza piccolo, ricordo che era una cosa allucinante, col cucchiaino gli amici di mamma. Ogni tre lanci, almeno un lancio, c'era una trotona che attaccava. E io, ricordando quello, vado, o non voglio attirare cucchiaini, ho provato tutto il tipo di maestoso, niente, non c'era modo, né con esche normali né con esche artificiali. Poi quest'acqua tutta verde fluorescente, e arriva, c'era come questa alghetta verde fluo, tutta strana, sembrava conquinata. Sembrava un bacino morto. Marco, io ho fatto i conti che se paghi 10 euro per l'entrata, ma non metti esca, perché come esca ho usato pane normale, pane duro, ho messo al bagno, poi ha fatto le pallottole e le ha messe nell'acqua. E devi contare che se compri l'esca ci spendi sempre più di 10 euro, e a Puglia, se ne prendi 4 scatole devi avermi 10 lucotti, adesso mi pare costano 7 euro gli americani, 7-8 euro. E da Delta te lo trovi tutto, da Delta te lo trovi vermi, trovi tutto qua. Comunque. Mi sa che ha chiuso anche Tore, quello di Liputi, che era super rifornito di tutto. Vedeva tutte con scandagli, fucili, roba da pesca, esca, c'aveva tutto. Non capisco perché abbia chiuso. Qual è questo? Quello dei punti, mi hanno detto che ha chiuso. Sportland ha chiuso. Porca miseria. Era l'unico rimasto. Credo, valido, sai che aveva un saccaccio di roba. Sembrava un negozio di alimentari, quando andava era sempre pieno, un po' di gente ci andava, poi era onesto, capito? Era onesto, io gli telefonavo, tu lasciami 3 o 4 scatole di vino, ma controllami che siano un po' grossi, perché a me mi servono grossi. E lui li cercava, me li lasciava, me li faceva vedere, guarda se ti piacciono come te li ho lasciati belli, tutti belli vivi, il vino poi li prendeva a gogo, quindi non aveva mai roba di scarto. Chi era quel ragazzo da Sportland, quello con i capelli rossi? Esatto, Tore. C'aveva tante cose belle, ci avevo comprato delle pinne, coltelli da sub, roba del genere. Anzi, me l'avevano ordinato apposta. Me l'ho fissato, ne avevano 10.000 coltelli da sub, però io me l'ho fissato con un modello. Dice, guarda, se vuoi proviamo a ordinare, se è disponibile lo ordiniamo. Invece molti negozi, no, ci abbiamo questo, come dire, se voi ci abbiamo questi, se no. Niente, invece al primo ordine l'hanno inserito nell'ordine e me l'hanno fatto avere, per dire. Sì, ci aveva di tutto, dottore. Perlomeno io non ho accurato, però mi hanno detto che ha chiuso. Mi stava dicendo un amico che ha chiuso. E lì ci andavano tutti, perché era onesto, gentile e tutto. Addirittura io ho comprato una canna, da pesca, e c'avevo i testimoni che tra l'altro erano clienti sui. Faccio il primo lancio, Marco, come vado a lanciare, si è spaccata in due. No, cavolo. E c'erano andati i testimoni, si sono messi tutti a ridere. Diceva, portate la scusa, se non me l'hanno parata. Lo portate, c'era il padre, no, ma deve essere lì. L'ha messa male in macchina, questa e quella, tutto era tutto di bigia, così e così, te la cambiamo, andavano qua, deve essere che aveva qualche difetto e si è spaccata per quello, magari c'era qualche filatura senza anche nel trasporto, può succedere, ma l'ha cambiata subito senza studio, il padre già stava facendo studio, capito? Insomma, meno male che c'è Decathlon, perché se è vero questo, Sportland avrebbe chiuso, Formice aveva chiuso male pure, Mascia, come si chiamava, quello in via Sulcis, che vendeva canne, mute, fucili sub, quello grosso, quell'ex pugile mi pare fosse, chiuso. Chi altri c'era? Pasquale ha chiuso, anche se Pasquale aveva più che altro roba la sub, insomma tutti chiuso hanno. Allora grazie a Dio che c'è Decathlon. Ma ce ne deve essere qualcuno che ha preso niente, io mi ricordo che con Franco una volta eravamo andati a prendere da comprare l'esca, poi ce n'era una di punti, proprio dove c'è la salita di fronte alla chiesa, visto c'è quella salita, proprio all'inizio della salita sulla destra ce n'era una. Io i punti di riferimento erano quelli. Sì, tipo, come si chiamava? Mascia per caso, con via Sulcis. Non me lo ricordo, ma glielo conosco, ho comprato tutta l'attrezzatura su Barbari, muta, pinne, fucile, pallone, tutto lì l'avevo comprato. Sì, era sempre disponibile, si consigliava, e lì avevo preso il maialino, quello a benzina, con motore per andare a largo, no? Per non fare troppo sforzo. Invece il maialino elettrico l'avevo preso da forbice, quello che aveva la batteria, era stagno e si immergeva quello, poteva andare proprio in profondità. E poi vabbè, poi la roba si sciuppa, lo usi poco, eccetera, vabbè. Quei tempi comunque, quando sei giovane, più giovani di adesso, dai, diciamo. Io adesso non me la sento perché ho dolori, perché se no a me stessavo 4 ore in acqua, io figura di due, è che sono tutta dolori adesso e non me la sento, se mi metto a immergermi nell'acqua per 4 ore non mi troverò più, cazzo, qui a dolori così, speriamo che venendo l'estate mi passi tutto, cazzo, lo sto sperando, adesso dovrò andare a fare un po' di fisioterapia perché non posso stare con questi dolori, l'altro giorno mi si è bloccata una mano dai dolori, non riuscivo manco a muoverlo. Cavolo, la gamba va bene, forse per l'operazione che ho fatto, però la mano, ma hai avuto traumi da poco con la mano? No. Allora, la gamba, ti dico la verità, passando questa pomata che si chiama Balsamo Cavallo, ordinata da internet, me l'hanno consigliata e mi ha fatto benissimo, mi ha fatto passare tutto la gamba, non è la questione di operazione, ma è la questione di nervo sciatico che rimane ben tira e mi faccio avere dei dolori tipo crampi, ce l'hai presi? Più o meno, no. Ma chi lo sa se si è rovinato anche roba somministrata, ecco, a dir poco. Comunque io in acqua non c'era muta che tenesse, io avevo sempre freddo in acqua. Avevo provato anche a mettere il maglione sotto la muta, maglione in lana, così mi avevano suggerito, però io sempre battevo i denti in acqua, soprattutto se andavi alle bombarde, al coso, Punta Galera, Lazzaretto, tutta la zona lì, da battere i denti dal freddo, perché lì l'acqua è ghiacciata comunque. Bene o male lo senti, se scendi sotto poi non ne parliamo, superficie ancora, ma quando ti immergi, ciu. Ma quella zona è già appunto quell'acqua, e poi dipende da quanti millimetri c'era, tutta la muta, io c'erano da 4 millimetri, era bella grossa, però d'estate non la mettevo proprio per niente, e la usavo d'inverno quella muta, quella grossa, d'estate non la mettevo, quando andavo a pulpi d'inverno, a semi, allora mettevo la muta. Perché poi vabbè, la migliore è la spaccata perché rilisce la pelle, no? Però ci vuole Gesù Cristo a metterla e toglierla, per carità. Poi vabbè, a Platamona io comunque una mutina, se la mezza mutta che arriva a mezza coscia e mezzo braccio, perché essendo freddoloso, sai, una cosa è farci il bagno e uscire, una cosa è starci 2 ore in acqua, se non di più, qualche polpettino lo trovavi in quella zona quinto pettine, poi hanno svuotato tutto, non trovavi l'ombra di un polpettino a pagarla 1 milione. Probabilmente lì era talmente abbattuta la zona che hanno proprio svuotato tutto, hanno preso anche degli esemplari piccoli e non si sono potuti riprodurre, presumo. Io andavo lì a Platamona, andavo tra il quinto e il sesto, oppure andavo alla rotonda e facevo dalla rotonda, facevo tutto il litorale, se ne avevo voglia. E lì ho preso, vicino alla rotonda ho preso un bel groppo. 3,950 kg pesante, mi ha piegato l'asta, non ti dico altro, me l'ha piegata, e dalla forza che stava facendo si contorceva tutto, e invece tra il quinto e il sesto pettine prendevo scorfari, seppie, qualche polpo, qualche saraghi l'ho preso, roccali, qualche bella babosa. Scusa già, devo bere un po'. comunque vista l'ora già io magari una lavatrice veloce me la metto, dai, magari porti il cane. E peccato per la roba sub, per esempio c'è un fuciletto, sai, medio della Homer, corrispondente a un Medisten così, o Ministen, ma cosa dire, mai usato, comprato, pompato, no, bello, per fargli raggiungere la pressione, mai usato in mare, è ancora vergine, ma o quest'estate o quando bisognava sverginarlo, perché mi piace il cuore averlo così. A me mi è rimasto solo il pugnale della Crisi. Io usavo la Crisi o Males come marche, Omar non ne ho mai usato, Omer. O Crisi o Males, ma di solito la Crisi usavo. Il Males ho avuto un po' di fucili, Ministè, invece nella Crisi, poi ci ho avuto anche il Medi Ref, non so se te l'hai conosciuto, quello con Marco Bianco. Buonasera. Buonasera, chi è entrato? Allora già, non mi ricordo. Io personalmente a me piacevano i Crisi SL Star, quelli con il manico giallo, tubo color tipo bronzo, una cosa del genere. Poi questo Homer, l'avevo visto a Città Mercato in estate, siccome ero rimasto senza, l'avevo preso e poi mi hai usato. Però tutto è malore, vedi? Coltiga sub poi non ne parliamo, sono quasi tutti nuovi perché poi non ho avuto modo di proseguire. La collezione di coltelli al sub, cioè una marea di materiale tutto lì che se la ride, mute, palloni, di tutto c'è in questi istantini, è una cosa allucinante. Tutta roba ferma poi. E mia zia sempre dice buttiamo, ma cosa vuoi buttare? Mi piange il cuore, è come buttare banconote, capito? Buonasera, che è entrato, avanti. Ah, io l'ho sentito molto basso, Marco, non so come l'ho sentito. Bassino di radio, aspetta che siamo anche allo squelcio un po' alto, vediamo se lo copio. Nominativo, avanti, Marco da questa parte. Ciao, Walter, adesso ti ho ascoltato. E come mai sei così basso? Ah, ma è macchina, sì. No, non è possibile, c'è qualcosa, perché se Santiago 5 la dà di 2.